conosciuti affetti. Forte crudel, qui mi trattieni, appena me riconosco articolarmi accenti. Non so, non posso, a mio dispetto in zen, nascer sento i sospiri e mi riempie di lacrime le ciglia, un'inusata tenerezza, oh pietà. Formola ingrata, oh del cielo, e ripiglia l'uso di sensi. Questa guerra di dubbi, di